Dunque, cari radioascoltatori, questa sera è una puntata ricca di temi. E questa sera Giro di Boa inizia ad occuparsi, diciamo con un certo anticipo, delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Discuteremo con i nostri ospiti della riforma della legge elettorale per le elezioni del Parlamento europeo. E commenteremo anche la questione dell'Election Day, ossia quando agli elettori sarà data la possibilità di votare sul referendum promosso da Mario Segni sul cambiamento invece della legge elettorale per le elezioni politiche in Italia, si è discusso meno se avere questo referendum lo stesso giorno in cui ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo, ma questo non sarà il caso e ancora non è stato deciso quando gli elettori potranno votare per il referendum. E poi allargheremo il discorso appunto al Parlamento europeo, ai nostri rappresentanti italiani al Parlamento europeo e alle loro, diciamo, presenze, assenze, ma questo sarà appunto più in là in trasmissione. Direi di partire dal primo tema di cui ho parlato in questa introduzione, quindi la riforma della legge elettorale per il Parlamento europeo. Vorrei quindi chiedere subito a Giacomo come funziona attuale e quali sono invece le novità che sono state introdotte dalla riforma di questa legge che è stata di recente approvata. La legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo fino a qualche giorno fa, anzi fino a oggi, perché oggi è stata adottata in via definitiva la nuova legge elettorale, funzionava nel modo seguente: innanzitutto un sistema proporzionale puro, con l'Italia divisa in 5 circoscrizioni elettorali, nord-ovest, nord-est, centro, sud e le isole, e un sistema proporzionale puro che ha permesso dal 79, anno in cui si sono svolte le prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo, di rappresentare delle forze politiche anche piccole numericamente. Con la legge elettorale approvata in via definitiva ieri o oggi, le cose cambiano, ossia ci sono sempre 5 circoscrizioni elettorali, peraltro molto grandi, per immaginare che ad esempio la circoscrizione nord-ovest comprende la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, quindi niente male per un candidato che vuole fare campagna elettorale, deve viaggiare notevolmente da una parte all'altra del nord-ovest. Con una differenza enorme, ossia è stata approvata la soglia di sbarramento del 4%. Cosa significa? Significa che i partiti che a livello nazionale non raggiungono il 4% non verranno rappresentati al Parlamento europeo. Per curiosità, quanti sono i partiti italiani attualmente rappresentati nei vari gruppi politici che ci sono al Parlamento europeo? I gruppi italiani attualmente rappresentati al Parlamento europeo sono, salvo errore da parte mia, 18. Da Forza Italia, che è il partito più grande, fino a Forza Nuova, che è decisamente quello più piccolo. Ok, quindi è stata introdotta una soglia di sbarramento, dicevi, del 4%. Esattamente, è stata introdotta una soglia di sbarramento del 4%. È una soglia di sbarramento che per il Parlamento europeo è una novità in Italia. In altri stati membri da sempre vi è una soglia di sbarramento anche per l'elezione del Parlamento europeo. Per l'Italia invece è la prima volta che si presenta uno sbarramento. Questa legge di riforma è stata approvata sia dal Popolo della Libertà che dal Partito Democratico, quindi dai due principali partiti italiani. Dicevo quando ti ho introdotto che tu sei assistente parlamentare dell'onorevole Nello Musumeci, invece membro del partito La Destra. L'onorevole Musumeci si è espresso contro questa modifica. Quali sono le motivazioni? Ma le motivazioni sono essenzialmente due. La prima è che l'onorevole Musumeci, ma come lui tanti altri cittadini italiani, anche io del resto la penso in questo modo, non perché lavoro con lui, ma perché lo penso sinceramente, definiscono questa legge inutile e assurda e ingiusta. Ingiusta perché così facendo si toglie la possibilità a partiti piccoli, partiti di minoranza, di far sentire la loro voce al Parlamento europeo, partiti che sommati rappresentano circa 8 milioni di cittadini, di elettori. Questa è l'ingiustizia. È assurda perché il Parlamento europeo, come molti probabilmente sanno, è un Parlamento che non ha, a differenza dei Parlamenti nazionali, lo scopo di sostenere un governo. Per cui il Parlamento europeo è l'organismo europeo per eccellenza che rappresenta le varie voci, o dovrebbe rappresentare le varie voci che si riscontrano nei vari Stati membri, e a differenza del Parlamento nazionale non deve sostenere un governo. Quando il Parlamento europeo, e capita spesso, vota contro una proposta di regolamento, di direttiva della Commissione europea, la Commissione europea, presieduta da Barroso e i suoi 26 commissari, non cadono, non vi è una crisi istituzionale. Quindi, se proprio si vuole fare una legge di sbarramento, sarebbe più opportuno farlo per le elezioni amministrative, dove lì sì che i governi locali, siano essi consigli comunali, provinciali o regionali, devono sostenere un governo, una giunta. E il Partito Democratico, che è stato il principale artefice di questa legge elettorale, e il PDL, ma il Partito Democratico in particolare, approvando la soglia di sbarramento del 4%, fa sì che vi sia un grande rischio che i piccoli partiti non vengono più rappresentati al Parlamento europeo, gli stessi partiti con i quali il Partito Democratico vuole allearsi alle prossime elezioni amministrative per governare i comuni, province e regioni. Quindi c'è anche una situazione abbastanza ambigua, se non ilare. Senti, però, da un lato tu dicevi prima che nella maggior parte dei paesi europei c'è questa soglia di sbarramento, perché l'Italia dovrebbe rappresentare un'eccezione? Dunque, in alcuni paesi, in alcuni stati membri c'è la soglia di sbarramento, c'è ad esempio in Francia, c'è in Germania, ma in Irlanda, e quindi non nella maggior parte. In Italia, secondo me, non si giustifica, perché l'Italia, a differenza dei paesi che ho appena nominato, Germania e Francia in primis, per non parlare poi della Gran Bretagna, per tradizione hanno sempre avuto pochi partiti. Da noi in Italia abbiamo un paese che ha delle particolarità che non si riscontrano in altri stati membri. Dal 1946 in poi i partiti sono sempre stati più numerosi che in Germania, e quindi è abbastanza così strano che da un giorno all'altro si cerchi di con la legge elettorale, con lo sbarramento del 4%, di imporre un bipartitismo forzato. L'Italia è un paese molto variegato, un paese politicamente, oltre che geograficamente, socialmente, culturalmente, quindi ritengo questa legge abbastanza dannosa. Enrico, tu invece di cosa ne pensi? Da osservatore di leggi elettorali? Io devo essere sincero, non ho una grossissima simpatia per quelli che sono definiti partitini, spesso anche perché questi partitini sono spesso partiti estremisti, quindi volendo essere fazioso, sono contento di vedere scomparire l'estrema sinistra o l'estrema destra. Però devo dire che il modo con cui è stato fatto il cambio di questa legge elettorale è scandaloso, perché insomma è stata fatta proprio in piena campagna elettorale. È come se un arbitro durante una partita di calcio dicesse a partita iniziata: beh, da questo momento è vietato calciare con il piede sinistro. E ovviamente tutti i calciatori che calciano con il piede sinistro sarebbero danneggiati. E poi la ritengo anche ingiusta, sono d'accordo con la presentazione che ha fatto Giacomo, perché la soglia di sbarramento, sia a livello europeo e anche a livello nazionale, è vero che limita i partiti più piccoli, però è vero anche che dà pone grandi problemi a quei partiti che territorialmente sono forti. Cioè ci può essere il caso di un partito che magari in una regione è molto presente, il caso della Lega, insomma, ora la Lega è forte anche a livello nazionale, ma ci sono stati dei momenti in cui soltanto in alcune regioni era forte, o il caso anche proprio dell'onorevole Musumeci che prende tantissimi voti in Sicilia. E beh, questo lo trovo ingiusto, perché una forza politica che è così tanto radicata in una regione deve avere la possibilità di essere espresso, espressa sia a livello europeo che a livello nazionale. Se poi non vogliamo che questa forza governi, ci sono delle altre possibilità, ci sono delle altre scelte. Io sono per esempio per il doppio turno, sono per le primarie, sono ovviamente per quello che propone Mario Senni sul referendum elettorale nazionale, quindi ci sono diverse formule che possono essere applicate. Personalmente lo sbarramento io lo trovo molto ingiusto, però ripeto, il risultato che porta mi va bene, perché insomma sono stato contentissimo di vedere fuori dal Parlamento quelli che sono definiti i partitini. Ecco, volendo essere fazioso mi va bene, però riconosco che non è giusto. Io sono parzialmente d'accordo con Enrico e dissento però su un aspetto, ossia sul fatto che con la legge elettorale non vengano rappresentati i partiti estremisti, o meglio, è vero ma solo in parte, perché alcuni partiti che non sono estremisti affatto, come ad esempio i Verdi, il Partito Socialista, il Nuovo PSI o i Radicali, che peraltro sono quei partiti che pur essendo in minoranza sono fra i più attivi al Parlamento Europeo, non sono estremisti e non sono per nulla estremisti. Non voglio fare campagna elettorale, ma ritengo che sia un peccato per il Parlamento Europeo privarsi di deputati come ad esempio la Verde, nonché capogruppo dei Verdi, Monica Frassoni, o il radicale Marco Cappato, che io non ho mai votato né l'uno né l'altro e non ho particolari affinità politiche, ma riconosco che sono dei deputati che hanno lavorato bene e tanto, che conoscono benissimo le istituzioni comunitarie, e ritengo che sia una perdita di valore per il Parlamento Europeo. Alessandra, tu che idea ti sei fatta? Abbiamo ascoltato le ragioni di Giacomo, abbiamo ascoltato l'opinione di Enrico. Sì, senz'altro probabilmente si migliorerà la governabilità, però come diceva giustamente Enrico, la tempistica è proprio una cosa, non so, forse una caratteristica italiana di cambiare le regole in corso del gioco. Io però avevo una domanda da fare, perché originariamente la riforma che era stata presentata dal PDL, oltre allo sbarramento, prevedeva anche di togliere all'elettore la possibilità di esprimere le preferenze sui candidati, cosa che invece non è stata toccata. Allora, i nostri due ospiti cosa ne pensano al riguardo? Primo, e secondo, le preferenze saranno ridiscusse magari in futuro, quando ci sarà più tempo, dunque quando le elezioni europee non saranno praticamente alle porte? Vuoi rispondere? Dunque, sono Alessandra, una precisazione che secondo me è utile. Dicevi che la soglia di sbarramento è utile per la governabilità. Sono d'accordo, ma il Parlamento Europeo non deve dare un sostegno, dare fiducia o togliere la fiducia al governo europeo, che è la Commissione Europea. Il Parlamento Europeo può, ben inteso, se vuole, non l'ha mai fatto, solamente minacciato una volta di far cadere il governo, sia il potere esecutivo, sia la Commissione Europea. Ma al di fuori di questo importante potere che viene attribuito al Parlamento Europeo non c'è una questione di governabilità, a differenza dei governi nazionali e locali. Per quanto riguarda la questione delle preferenze, si è ventilata l'ipotesi di togliere anche per le elezioni europee, così come avviene ormai per le elezioni nazionali, per le politiche, di non dare la possibilità ai cittadini italiani il voto di preferenza per i candidati. Io ritengo che per fortuna questo aspetto della legge elettorale non è stata più modificata, perché sono del parere che i cittadini abbiano il diritto di votare per chi loro ritengono sia il candidato migliore, e anche perché questo dovrebbe dare un senso di responsabilità al deputato, il quale, se eletto, è eletto perché è stato scelto puntualmente dai cittadini, e di dover dar conto della propria attività svolta, in questo caso al Parlamento europeo. Quindi se poi nel futuro si ridiscuterà di questa ipotesi, ossia di quella di togliere il voto di preferenza, non lo so, non mi stupirebbe se se ne riparlasse, perché i partiti sono abbastanza ingordi, e il fatto di poter decidere loro stessi in quattro a tavolino chi si presenterà nei primi posti della lista, senza che il cittadino possa sconvolgere con il voto la lista stessa, è naturalmente molto attraente. Enrico, vuoi commentare anche tu su questo? Ma no, sono d'accordo. Brevemente, ecco, dobbiamo scegliere se vogliamo dei politici, che quindi sono eletti, o dei prefetti, che sono nominati dal partito. Quindi se vogliamo un paese governato da gente che è paracadutata dal partito e che magari se si presentasse alle elezioni prenderebbe un voto, va bene, insomma, io non sono d'accordo. Per questo motivo credo che siamo d'accordo. Sì. E per questo motivo io sono contento di essere residente all'estero, dove l'unico collegio dove sono rimaste le preferenze, almeno ho la sensazione di poter votare, perché insomma, ecco, oltretutto mi riconosco difficilmente nella scena politica italiana di oggi, quindi chiedermi di votare un partito mi è veramente difficile. Invece magari se conoscendo personalmente un candidato, ecco, posso magari aver piacere a votare un tal candidato senza pensare alla preferenza. Una cosa particolare che succede penso solo in Italia, almeno dell'esperienza che ho all'estero, è che riusciamo a fare polemiche anche per quello che riguarda alla fine l'Europa. Cioè, io non credo che in altre nazioni ci siano polemiche riguardo la riforma elettorale, dovrebbe essere una cosa abbastanza condivisa, insomma, o il più possibile condivisa. Oltretutto nelle altre nazioni non è che cambiano la legge elettorale in corso di campagna elettorale. Diciamo che è già successo in Francia negli anni '80, durante la presidenza Mitterrand e durante il periodo della coabitazione, ossia col presidente socialista e il primo ministro gollista, in caso di specie Chirac. Più di una volta in Francia è stata cambiata la legge elettorale alla vigilia di due o tre elezioni amministrative e o politiche, ma si tratta di casi, per fortuna, non frequenti. E il fatto che in Italia sia stata adottata una legge, come diceva giustamente Enrico, a pochi mesi dalla scadenza elettorale è vergognosa, e oltretutto dà la sensazione vera che i politici abbiano voluto fare, la maggior parte degli uomini, dei politici del PDL e del PDE, abbiano voluto fare i furbi per cercare di accaparrarsi più numero possibile di seggi elettorali. Era una cosa che però era già successa nel 2006 con la legge elettorale per le politiche che abbiamo ancora adesso, di cui dopo magari parleremo, insomma. A maggior ragione conferma appunto la secondo me la poca serietà della gran parte dei nostri politici, e l'impressione che hanno dato è pessima. L'importante per un politico, così come tra l'altro per i magistrati, non è solamente quello di fare la cosa giusta, ma anche di dare l'impressione di fare la cosa giusta. In questo caso non hanno dato assolutamente, magari la legge sarà anche condivisibile, ma i modi sono del tutto inaccettabili. Bene, sul Parlamento europeo, sul ruolo dei parlamentari, dei nostri parlamentari qui a Bruxelles, ritorneremo più tardi. Vorrei ora aprire una parentesi sul cosiddetto Election Day. Alessandra, ne parlavamo in apertura. Sì, ci riferivamo al provvedimento sull'Election Day, cioè praticamente l'accorpamento di quello che sono le elezioni europee ed amministrative con possibilmente il referendum. Dunque abbiamo, se non ricordo bene, abbiamo in studio Enrico, che credo possa ampiamente parlarci di questo problema e soprattutto di questo provvedimento, che credo sia allo studio del Parlamento in questi giorni, vero Enrico? Beh sì, la questione è molto semplice, come gli ascoltatori sapranno c'è un referendum che sarà indetto in estate, prima nel mese di giugno, e bisogna scegliere la data, quindi la proposta del comitato promotore è di farlo coincidere con le elezioni europee, la proposta invece di chi è contro questo referendum è di porre come data del referendum la domenica tra le elezioni europee e poi la domenica successiva, che è quella in cui ci sarà il ballottaggio per le amministrative. Quindi gli italiani in questo caso sarebbero chiamati alle urne tre domeniche di seguito nel mese di giugno, e quindi insomma questo significa ovviamente fare ostruzionismo, innanzitutto una spesa enorme, ma poi anche fare ostruzionismo, perché è ovvio che insomma è difficile che per tre weekend di seguito un italiano insomma vada alle urne, è quasi inconcepibile. Enrico, vogliamo ricordare come mai il referendum deve essere fatto proprio nel mese di giugno? C'è un obbligo? C'è un obbligo, sì, c'è un obbligo costituzionale, perché il referendum viene indetto dall'inizio dell'estate fino prima di luglio, insomma, ora non ricordo bene i tempi, però c'è un obbligo, non si può andare oltre una certa data. Enrico, vogliamo ricordare brevemente quali sono i quesiti referendari che verranno posti agli elettori? Ma i quesiti sono tre. Uno, la questione è molto semplice, si tratta di dare un premio di maggioranza non alla coalizione che vince, ma al partito che vince, sia alla Camera che al Senato, quindi questi sono i primi due quesiti, che significa che il partito che vince governa. E il terzo quesito invece vieta le candidature multiple, cioè il fatto che il politico famoso possa essere candidato in più collegi, e per poi rinunciare a uno di essi, e quindi per dar spazio al secondo eletto. Enrico, che è corrispondente qui a Bruxelles della radio SBS Australia, ha realizzato un'intervista con Mario Segni, uno dei promotori di questo referendum. Ascoltiamo ora questa intervista e poi dopo ritorniamo in studio e la commentiamo. Professor Mario Segni, lei promuove il referendum elettorale che si terrà a giugno prossimo. Purtroppo non è stata ancora decisa la data e lei suggerisce quella del 7 giugno in maniera tale da accoppiarlo alle elezioni europee. Perché suggerisce questa election day? Intanto io voglio ricordare che questo è il referendum contro la legge Porcata, perché così la definì il ministro Calderoli, cioè il ministro che la fece, e che è la legge che ci ha regalato un Parlamento di nominati invece che di eletti, perché il Parlamento viene fatto dai capi partito, dai capi pastori. I cittadini possono votare gli stoni e non possono votare le persone, quindi questo è il referendum. A questo punto il referendum si deve fare a giugno, si può fare o il 7 o il 14. Il 7 si vota per le europee in tutta Europa e in Italia anche per le amministrative. Un calcolo fatto da un centro autorevole dice che se si vota il 14 si spendono circa 400 milioni di euro. Beh, allora un elementare senso di buon senso ci dice che in una situazione di crisi così grave è assurdo buttare dalla finestra una somma enorme. E per che cosa? Per sabotare il referendum, perché da tutte le parti del mondo, Europa o America compresa, l'abbiamo visto a novembre, si vota tranquillamente elezioni e referendum tutti assieme. Siamo solo noi con questa anticaglia e questa barbarie. Ecco, tra le iniziative che state portando avanti c'è anche questa qui di Pontida la settimana prossima, lunedì prossimo se non sbaglio, di che si tratta? Ma Pontida è un luogo importante nella storia italiana da secoli, molto prima che nascesse Bossi e compagni, perché è il luogo dove i Lombardi si sono ribellati all'imperatore, hanno affermato il principio di libertà. Ora noi vogliamo andare in un luogo simbolico a parlare cifra enorme per difendere i partiti, cioè il nuovo imperatore, per difendere il nuovo potere, la casta romana che attraverso la lista bloccata ci impone un Parlamento di nominati che non contano niente, infatti il Parlamento è morto, lo vediamo. Questo diremo a Pontida lunedì, ma questo diciamo tutti i giorni, sperando che gli italiani facciano sentire ai governanti la loro voce e dicano beh, facciamo una cosa seria. Professor Segni, abbiamo visto qualche mese fa questo grande cambiamento negli Stati Uniti che è stato Obama, ma in Italia ci sono le basi per avere un Obama? No, assolutamente no, ha scritto un grande giornalista, e se non si cambiano le regole in Italia Obama non arriva neanche in piazza del Parlamento. Obama è stato eletto perché ci sono le primarie, cioè perché tutto dipende dai cittadini, qua tutto dipende dai capi partito, figuriamoci i capi partito aprono un giovane e un nuovo, un assurdo, ma noi, per questo noi facciamo un referendum, per questo ci battiamo per le primarie, perché anche in Italia ci possono essere questi cambiamenti. Ecco, come sa chi ci ascolta, siamo tutti insomma residenti all'estero, i residenti all'estero avranno anche la possibilità di poter votare al referendum? Certo, il referendum ormai si vota anche all'estero e mi auguro che ci sia anche una buona affluenza, perché non interessa a tutti, questo vorrei dire addirittura, anzi i cittadini più lontani sono e più sono interessati a che la democrazia italiana funzioni. Perfetto, io le faccio tanti auguri e spero davvero di, come italiano, di poter risparmiare questi 400 milioni di euro di cui sopra. Grazie tante. Grazie, arrivederci. Giacomo, tu che cosa ne pensi, come vedi questa polemica sull'Election Day, tutta questa questione dei costi? Io non sono un amante dei referendum, però trovo che in Italia se ne sia abusato negli ultimi 30 anni. Ritengo però che i referendum, quando hanno ad oggetto dei temi importanti, seri, e questo è uno dei pochi casi di referendum che seri e che possono influire in bene o in male, secondo me in bene, nella vita politica italiana, vadano sostenuti. E ritengo anch'io, sono totalmente d'accordo con quanto dice l'onorevole Segni, e cioè che questo referendum dovrebbe svolgersi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo e delle amministrative. Non ha senso far andare tre domeniche di seguito i cittadini italiani alle elezioni. Però, ricordo che si vota giugno in Italia di solito fa molto bello e gli italiani sono più propensi ad andare al mare o in montagna piuttosto che rimanere in città e votare. Quindi sono anch'io d'accordo l'Election Day e sul fatto che si voti anche per referendum il 6-7 di giugno. Un'ultima domanda ad Enrico prima di passare Alessandra al prossimo tema, diciamo al terzo tema di questa serata. Enrico, un'ultima battuta su questo, quindi diceva Mario Segni, se non cambieranno le regole sarà impossibile avere in Italia un Obama? Eh sì, lui diceva che se non cambiano le regole Obama non arriva nemmeno in piazza del Parlamento, ma secondo me non arriva nemmeno alla piazza del Pantheon, non atterra nemmeno a Fiumicino. Con queste regole siamo proprio lontanissimi, abbiamo dei politici che sono vecchi, e il vecchio in politica non è come per il vino che migliora con gli anni, quindi il sistema va assolutamente riformato. E oltretutto poi ricordo che il referendum è stato firmato da 800.000 cittadini, quindi insomma il metterlo in una domenica tra due domeniche di voto è anche una mancanza di rispetto nei confronti di questi 800.000 cittadini, tra cui me, che hanno firmato per il referendum. Per non parlare poi dei 400 milioni di euro, che credo che sia una cifra che si commenta da sola, ecco, non c'è da fare nessun commento. Se abbiamo voglia di buttare 400 milioni di euro dalla finestra, beh, facciamolo. Evidentemente la condizione economica dell'Italia è così florida che possiamo permetterci. Alessandra, ritorniamo al ruolo del Parlamento europeo e al ruolo degli eurodeputati. Giacomo è al momento assistente dell'onorevole Nello Musumeci, che è parte del gruppo L'Unione per l'Europa delle Nazioni. Enrico è stato assistente parlamentare dell'onorevole Mario Segni nella passata legislatura. Alessandra, quindi il tema, ultimo tema della serata, il ruolo degli europarlamentari italiani, presenze e assenze. Sì, esatto, lo abbiamo detto più volte, questa sera, il 6 e il 7 giugno, ci saranno le elezioni europee, dunque l'Italia eleggerà 72 europarlamentari, saranno chiamati a svolgere il loro lavoro a Bruxelles, nelle commissioni e nelle plenarie a Strasburgo. Loro dovranno svolgere il loro lavoro fino al 2014. Ora la mia domanda è, con il tasso di astensionismo che si è verificato in quest'ultima legislatura, in cui gli italiani sono stati campioni, nel senso che sono stati assenti il 68% di volte in cui c'era una plenaria o delle commissioni, io volevo chiedere ai nostri due ospiti, se mi sentite bene, perché credo che ci sia un po' di fischio, come lo vivete quotidianamente questo assenteismo? È possibile lavorare con gli onorevoli italiani? Dunque, non so questo dato del 68% chi lo abbia fornito, mi sembra eccessivo. Com'è? La mia cifra si riferisce a dei dati che sono stati pubblicati su un noto periodico italiano nel mese di febbraio. Sì, comunque se questa cifra fosse vera, fosse reale, sarebbe naturalmente preoccupante, sono il primo a dirlo. Non voglio assolutamente giustificare l'assenteismo dei deputati italiani, i quali sono comunque in buona compagnia di altri deputati di altri stati membri, che non tutti sono dei assidui frequentatori del Parlamento, ma effettivamente i deputati italiani sono quelli che almeno in questa legislatura hanno frequentato meno l'assemblea parlamentare europea. Non voglio giustificarli, ma c'è da dire una constatazione, semplicemente quella che sto per fare, e cioè, data la nostra legge elettorale in base alla quale i parlamentari europei vengono eletti con la preferenza, qualcosa ha il vantaggio naturalmente di dare la possibilità al cittadino di scegliere il candidato che vorrebbe mandare a Bruxelles e a Strasburgo, dato e considerato questo fatto, i deputati italiani, una volta eletti, hanno l'obbligo, diciamo, morale di dar conto della loro attività svolta dal Parlamento europeo nel loro territorio, dove sono nella loro circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. E i deputati italiani che appunto sono qui in Parlamento hanno bisogno di stare spesso sul territorio qualora desiderassero, dopo la fine del mandato, essere rieletti. Il problema non si pone, per esempio, per i deputati francesi o i deputati spagnoli, i quali vengono eletti con un sistema elettorale con le liste bloccate, quindi basta essere nei primi posti di una lista di un partito forte e si è eletti, e non bisogna preoccuparsi di mantenere rapporti con il territorio al fine di un'eventuale rielezione dopo 5 anni. Questo fa sì che molti deputati italiani, ma ciò vale anche per deputati di altri paesi, ad esempio il Belgio, la Lettonia, l'Austria, e vi dicendo, siano meno presenti. Non è una cosa. Prego. Interrompo, ma l'obiettivo di essere eletti è quello poi di essere presenti in commissioni, di partecipare alle discussioni, di proporre delle azioni. Non mi sembra che il primo pensiero di un eurodeputato deve essere quello di essere rieletto nella legislatura successiva, perché o altrimenti sì, ovviamente consuma la maggior parte del suo tempo sul territorio, ma lui è eletto per lavorare a Bruxelles e a Strasburgo. Certamente, certamente. Beh, tu dicevi che questo, in questa legislatura il 68% ti sembra alto, il problema è che nella legislatura precedente gli italiani erano assenti il 69%. Tu hai ben citato altri paesi, ma gli altri, il secondo paese più assenteista ha 10 punti in meno dell'Italia. Sì. Secondo me sono tantissimi. Che comunque è tanto, sì certo, assolutamente, 68-58% di assenza, di assenzionismo è comunque tantissimo. No, è senz'altro vero quello che dici Alessandra, che una volta che si è eletti bisogna lavorare qui e essere presenti in occasione delle discussioni e delle votazioni, certamente, ma è un dato di fatto che se si vuole che con questa legge elettorale non si può ignorare e tralasciare il territorio di provenienza, e questo è uno dei sicuramente dei punti svantaggiosi della legge elettorale che abbiamo attualmente. Sono sicuro che se avessimo una legge elettorale con la lista bloccata il problema dell'astensionismo si ridurrebbe di gran lunga, ma non posso che darti ragione. Una volta che sono eletti devono stare qui a Bruxelles o a Strasburgo e svolgere il loro lavoro, indubbiamente non è un ragionamento che non fa una grinza. Voglio ricordare un ex deputato europeo, Amadeo Amedeo di Alleanza Nazionale, così come un altro deputato, l'ex giornalista Giacomo Santini, che nella legislatura 94-99 furono i due deputati col massimo di partecipazione fra tutti i deputati europei, più di 780 deputati europei, e purtroppo non sono stati rieletti, benché abbiano fatto un lavoro eccezionale al Parlamento europeo. Ecco, ci sono i pro e i contro. Enrico, tu? Sì, cosa ne dici? No, io non sono d'accordo, sono d'accordo parzialmente su quello che dice Giacomo, nel senso che non sono assolutamente a favore della lista bloccata, per due motivi. Uno, perché è giusto anche, assolutamente non sono a favore dell'assenteismo, però il deputato europeo non è un ambasciatore, quindi è giusto anche che torni a casa nel proprio paese e che sia legato in qualche modo al suo territorio. Ovviamente quando parliamo di 69% di assenteismo stiamo ben oltre questi limiti, quindi non sono per un deputato europeo che vive il 100% del suo mandato a Bruxelles. Però ecco, a parte questo, il problema secondo me non è del Parlamento europeo, è del sistema italiano, perché quante volte abbiamo visto in TV i pianisti che suonano alla Camera? Quindi l'assenteismo c'è anche al Parlamento italiano, c'è anche al Senato. Allora noi abbiamo la possibilità di cambiare le regole, abbiamo la possibilità di mandare a casa i partiti e di eleggere dei deputati riportando le preferenze. Certo, purtroppo non compare tra le preferenze del referendum, perché però ecco, col referendum si innesterebbe un processo che potrebbe ridare ai cittadini la possibilità di votare per il proprio candidato. Allora, nel momento in cui il candidato è assenteista, ormai con i giornali, con internet, su internet, credo che proprio sul sito del Parlamento ci siano tutte le presenze dei deputati, il cittadino può scegliere se mandare a casa il deputato assenteista che per 5 anni non ha fatto assolutamente nulla, o se rivotarlo. Nel momento in cui il potere è sempre gestito dai partiti, e quindi da 3-4 capi partito che sono in Italia sulla scena politica da più di 20 anni, beh, queste regole, questa non cambierà mai. Avremo l'assenteismo non al 69%, ma arriverà al 90%, perché non c'è modo, purtroppo il cittadino non ha nessun'arma per poter mandare a casa il deputato, l'eletto. È come se un'azienda non avesse il potere di licenziare l'impiegato che sta lì a scaldare una sedia. Un altro dato interessante che abbiamo letto in questo articolo che ha citato Alessandra, appunto un articolo dell'Espresso nel febbraio scorso, è il punto di vista dei lobbisti che rappresentano gli interessi delle aziende italiane qui a Bruxelles. Cito un lobbista appunto citato in questo articolo: abbiamo pochissimi interlocutori. In Parlamento vengono emendate tutte le decisioni delle commissioni. Nelle commissioni si decidono le norme che diventeranno poi leggi. L'altro ieri, ricorda questo stesso lobbista citato, a causa delle pressioni di inglesi, francesi e altri, ci siamo giocati un pacco di milioni che invece di cantieri nazionali andranno a finanziare opere strategiche straniere. Ecco, secondo voi stiamo perdendo l'opportunità di influenzare i processi legislativi a favore dell'Italia, a favore degli interessi italiani? Come commentate l'opinione di questo lobbista citato in questo articolo dell'Espresso? Io sono parzialmente d'accordo con il lobbista. Sicuramente nel caso di specie saranno mancati due, tre, non so se questo lobbista parlasse della commissione oppure o di un voto in commissione parlamentare o di un voto in seduta plenaria, probabilmente un voto in commissione parlamentare, quindi saranno mancati alcuni italiani, alcune volte uno o due voti possono fare effettivamente la differenza. Posso citare tanti casi di deputati italiani che hanno svolto fino ad oggi un eccellente lavoro e che sono stati relatori di alcune importanti proposte di direttivo di regolamento della Commissione europea, e per esempio l'ex deputato onorevole Adriana Polibortone, ma è solamente un caso.